incredibile restare ferma con le ali sgonfie. In salita scattano tutti avanti e tu che non ce la fai. E invece no, sto come sto, ma ho tanta vita da fare come sto. Adora piccoli dei, fa di più, chiama amore, una suggestione, ok. E allora no, sto come sto, c'è tanta vita da fare come sto. Cerco l'azzurro dei gesti come i tuoi. Tirami una rete e non lasciarmi andare, che non so dove sto. Non farmi cadere, perché si può cadere di in te rischierei. Mi potrei schiantare come un aquilone quando il vento non c'è, ma tu fammi atterrare senza farmi male che vuoi, io ti benedico. Immortale. Anche un atleta sbaglia gare importanti, questo lo sai. Mi senti o no, sto come sto, nel rosso delle parole, quelle tue. Radio Alma, la terra sonora, cuore di poesia, in questo appuntamento insieme con Enrico Maria stiamo parlando di un bellissimo libro di poesie, Precipita con me, in forma di diario, e stiamo questa prima parte conoscendo un po' meglio colui che ha realizzato quest'opera. E Enrico, tu poi tratti tutti gli argomenti, no? C'è anche Dio, c'è l'amore, c'è l'eredità affettiva, ci sono un sacco di cose. Io volevo Legge giusto un verso dalla pagina 8 aprile, nel quale, secondo me, si può comprendere il tuo modo di esprimere la poesia, che a volte in parole poetiche cerca anche però di far ritornare un po' con i piedi per terra, cioè di dire un po' al lettore, sì, è vero, c'è la poesia. Ci sono tante cose poetiche, ma poi c'è da vivere la vita di tutti i giorni. E questo verso lo leggo davvero con molto piacere perché secondo me è rappresentativo del tuo tipo di poetica, dove le parole sono appunto il veicolo per arrivare al cuore e all'anima delle persone. Dall'8 aprile leggo soltanto un verso che dice così: Stefano questo lo sa bene, mentre da ubriaco mi dice che il cielo è azzurro anche nelle giornate di merda. Perché da lassù è troppo lontano da tutto per sapere cosa succede davvero. Dimmi qualcosa su questo verso, dico. Non è semplice, lo so, lo so, lo so. è un fatto realmente accaduto, è la realtà delle cose. La parola, che è una delle cose più importanti che abbiamo e che spesso ci dimentichiamo, deve essere usata nel modo giusto e deve essere usata nel modo per arrivare al cuore delle cose. E in quel caso lì era il modo ideale di descrivere quella scena che era paradigmatica di un disagio. È Certo, tutto qui. no, è vero, la cosa bella è questa, no? Perché si può fare poesia dicendo che il cielo è azzurro, anche in una brutta giornata e basta guardare il cielo, ma in realtà poi bisogna vivere sulla terra e quindi effettivamente il cielo è azzurro, ma è abbastanza lontano per capire che possiamo avere delle difficoltà. Poi nel tuo libro, come questo credo che sia, non possa prescindere da alcun libro di poesie, arriva l'amore. Amore che, da quello che ho letto attraverso le tue poesie, poi mi dirai se è solo una questione stilistica e poetica o se è quello che pensi anche nella tua vita, in realtà ha bisogno di pochissime parole, l'amore. L'amore è una cosa talmente grande che è inspiegabile, è totalmente inspiegabile, irrazionale, ha un suo linguaggio e le parole possono appena sfiorarlo. Le parole possono appena sfiorare la vita e ancor meno l'amore, che forse è la cosa più grande che c'è. E per quanto riguarda invece la parte spirituale, quando dico spirituale non la intendo in senso globale, intendo spirituale nel senso religioso, ne parli nel tuo libro, ne parli molto, ogni tanto viene fuori questo legame che comunque noi italiani abbiamo forte, poi perché abbiamo lo Stato Vaticano nel cuore della nostra nazione, Certo. anche dal punto di vista geografico, e poi perché anche la nostra storia dell'arte ci riporta spesso le emozioni che riguardano questo. Ecco, tu, che rapporto hai con questa parte della vita? Penso sia importante credere, penso che sia una necessità umana credere in qualcosa di più grande di noi, qualcosa che in qualche modo possa determinati fatti, accadimenti che altrimenti non riusciremmo a spiegarci. C'è una necessità di un supporto e la fede può essere appunto questo grosso appiglio. Non lo so, io vengo da una famiglia cattolica. Quindi ho sempre avuto questa presenza in casa e non nascondo una certa ammirazione per le persone che credono, per questa fiducia, per questo loro mondo che sono capaci di creare. Più in generale, senza entrare nel merito, comunque ritengo che la fede sia una cosa importante, la fede vista come capacità di credere, qualcosa che riesca a spingere più là, più in su, più in alto le speranze. Ecco, più o meno io la vedo così. Leggo un altro verso dal tuo libro, 19 maggio, che va bene, in qualche modo, La leggo anche perché è vicino al mio compleanno, è il 18 maggio. 18 maggio non c'è una che si chiami così, fai un salto dall'11 al 19 maggio, quindi mi sono legato a questo. Ma a parte gli scherzi, perché ho trovato una cosa molto bella che mi viene da definire come una sorta di felicità democratica. La felicità dovrebbe essere democratica. E tu scrivi nei tuoi versi, a chiusura di questa poesia, proprio questo: scrivi, perché anche la persona più brutta al mondo, almeno per una volta, ha il diritto di sapere cosa si prova ad essere felice. La felicità dovrebbe entrare nella vita delle persone almeno una volta, però poi perderla non è qualcosa che ci può segnare in maniera troppo negativa? Dobbiamo correre questo rischio oppure no? È un rischio assolutamente da correre. La felicità, per come la vedo io, è lo scopo della vita. Purtroppo, tante volte io per primo mi sbaglio e non capisco il modo in cui si misura la felicità. La felicità è un istante, quindi non ha un suo estendersi in maniera orizzontale, ma un suo estendersi in maniera verticale, toccando picchi che sono inimmaginabili. Però è una ricerca a cui non bisogna mai rinunciare. Perché è importante mettersi in gioco e mettersi in gioco per le cose grosse, come sono la felicità, come sono l'amore. Perché Pietà con me è un libro duro, molto duro, spigoloso, può essere anche a tratti disturbante, però c'è sempre in sottofondo questa cosa del giocarsela, del volersela giocare, perché sia ben chiaro che nonostante si possa essere impastati di fango, che sono cose per cui vale la pena vivere, combattere, cercarle, ricercarle, ricercarle in se stessi e negli altri. Quello che hai detto credo che sia una giusta chiusura per tutto quello di cui abbiamo chiacchierato nella parte per conoscere un po' di più il poeta e l'uomo Enrico Maria. Il libro è Precipita con me di Zona, sono poesie in forma di diario. Io poi vorrei che tu mi raccontassi anche della tua opera poetica, perché non è solo questo che hai pubblicato. No, Allora, io ho iniziato a muovere i primi passi dell'ambiente letterario quasi per caso. Ho avuto la fortuna nel 2004 e nel 2006 di pubblicare due piccole plaquette per Annexia, che era una casa editrice di Genova. Una aveva come titolo il mio stesso nome, l'altra era Rivendicando disperatamente la vita. Da lì sono accadute tante cose inaspettate. La partecipazione a Genova Inedita, che è stata una bellissima antologia curata da Massimo Morasso, che è un grandissimo critico, e da Tina Cosmai, grandissima poetessa, e a cui hanno partecipato grosse voci della poesia e della narrativa italiana. E da lì poi è nata la volontà di andare avanti ed appunto si è arrivati a Precipita con me. La cosa sta continuando, sto continuando a scrivere, boh, mi sembra sempre una cosa un po' strana, devo dire la verità, non saprei cos'altro aggiungere, se non che lo scrivere, avere accanto persone che credono in me mi ha dato la possibilità di partecipare anche come giurato a dei premi letterari e mi sta dando adesso la possibilità di collaborare con la Ponta Capo editrice ha come direttore editoriale Mauro Ferrari, che è una persona che crede in me ed è uno dei massimi, direi, critici e poeti italiani, una persona meravigliosa, fantastica, con una sensibilità poetica incredibile. Bene, io prima di chiudere questa parte, poi nella seconda parte ci sarà la lettura di alcune delle tue poesie, e so che ci regalerai anche degli inediti, qualcosa che ancora comunque non è sul libro Precipita con me. Ti faccio una domanda che apre il tuo libro. Quando l'hai messa qui, dovevi aspettare che qualcuno poi la facesse a te, e lo faccio io. Hai ottenuto quello che volevi da questa vita finora, nonostante tutto? No. La risposta è ancora no. Bene, bene così. La risposta è ancora no, ma sono cocciuto, testardo e non smetto di cercare. E la trasformerà in un cine, sono sicuro. Bene, dico grazie davvero per essere stato con noi in questa puntata della Terra Sonora. È stata una chiacchierata molto Grazie a voi. interessante. Adesso i nostri radioascoltatori dovranno avere loro la scossa emotiva di leggere il tuo libro, Precipita con me. C'è dove hai qualcosa su internet dove ti si può cercare dei contatti? Altrimenti diamo chiaramente quelli della casa editrice, quindi Sono possono. quelli della casa editrice. Io Perfetto. purtroppo ho un pessimo rapporto con la tecnologia, sono un analfabeta informatico. Beh, magari possono rivolgersi al sito della radio e gli daremo delle informazioni. Comunque, editricezona.it, e lì troveranno tutto quello che riguarda anche Enrico Marelzo. Precipita con me. Bene, grazie davvero, Enrico, di essere stato con noi. Grazie ancora a voi di cuore. Mi auguro che quel no presto diventi un sì, e magari avremo. Ne sono sicuro, altre occasioni quando il tuo prossimo libro sarà in stampa e potremo leggere ancora qualcosa di te. Spero. Grazie di tutto, ciao Enrico. Grazie ancora. Della Terra Sonora, siamo nell'ultima parte di Cuore di Poesia dedicato a Enrico Maria. Precipita con me, lo abbiamo avuto con noi al telefono, con lui abbiamo chiacchierato, abbiamo conosciuto un po' meglio l'uomo ed il poeta. Adesso ve lo racconterò attraverso i versi inseriti proprio in questo libro, leggendo alcune delle sue liriche, liriche che anche lui leggerà sul fine della nostra puntata, ci regalerà, lo farà per noi della Terra Sonora, Cuore di Poesia, e per voi di Radio Alma, lo farà appunto leggendo due inediti che non sono stati inseriti in questo Precipita con me. 12 gennaio. La dipendenza, a volte, è più forte di ogni sentimento, e lui, non riuscendo, cercava di tenere a bada l'ulcera con bicchieri di latte, mentre la moglie invano ogni giorno tentava di rifare di quell'operaio un uomo. Quando da ubriaco inarcava le braccia per pestarci, sembrava una bomba che esplodeva, ma non ci ha mai fatto paura, perché purtroppo sapevamo che non contava un cazzo di niente, che se avessimo voluto l'avremmo messo sotto. Non puoi salvare chi non vuole essere salvato, ed una volta, durante una delle sue sceneggiate, mi sono nascosto sotto il tavolo della cucina, cominciando ad annotare e descrivere sul retro del cartone di una confezione di pasta ogni cosa che succedeva, il modo in cui era vestito, le sue parole e quello sguardo che, per il bene che gli volevo, non riuscivo a reggere. Tutto questo accadeva più di 10 anni fa, ed è così che io ho cominciato a scrivere, nel timido tentativo di ritornare a vivere. 29 gennaio. Lungo i viali, poveri e tossici ormai fanno parte del panorama, e se ogni tanto non ne crepasse qualcuno, la gente non si accorgerebbe neanche più di loro. Non esiste un posto sicuro in cui ripararsi, ed è per questo che mi rifugio nella droga, che rende tutto rapido e facile, moltiplicandomi per 100. Cristo, quando svanisce l'effetto vorrei tornare a casa, ma mi sento più a mio agio, attorcigliato e nascosto sul sedile della macchina di Stefano, che da qualsiasi altra parte. Una volta mi è piaciuta davvero una ragazza e non capivo più niente, ero come analfabeta. Era come una delle poche volte che sono andato all'estero. Avevo voglia di guardare, di ascoltare, non volevo più sparire. Vorrei davvero essere una bella persona, per scegliere di non perdermi, mentre sulle braccia che sfinite mi tremano cercandoti ogni giorno muore la vita, che invano tento di fermare sulla mia pelle per tirare il fiato. 28 febbraio. Questa notte ho provato il desiderio di distruggermi e di distruggere tutto, di violare il tuo corpo, di affogare nel sangue. La mancanza di qualcosa non la colmi, non la dimentichi, non la sostituisci con altro, e non mi perdono di essermi vergognato dei miei genitori quando da ragazzino fingevo di avere fatto cose che avevo solamente sentito nominare. Per non sentirmi più mi butto nel traffico. Qui la disperata creatività della vita è nei muri di periferia che salgono ogni giorno, e nel sapere che niente si risolve in maniera pulita, e nello smettere del pulsare delle cose cercate. Per la troppa vita che voglio nelle vene, mi sento come un cane senza padrone. La più semplice delle verità, a volte la costringiamo ad essere il più grande dei segreti, ed io, nel ridurmi a niente, non sono altro che il patto che ho stretto con l'eroina per combattere la crudele fame del presente, che non ho. 13 marzo. Per mio padre, mia madre cessava di esistere nell'istante in cui lei finiva di scaldargli la cena o quando le scendeva di dosso dopo essersela montata. In 4, in 65 metri quadrati, era difficile non accorgersene. Questa è la classe operaia che ho conosciuto io, non quella dei libri o dei film, marutti, bestemmie, mani pesanti, denti gialli, il cesso in poggiolo, 15 giorni al mare in Liguria, la 127 e poi la 1. Non me ne vanto con te, non mi fa avere ragione, non mi rende migliore, non giustifica quello che non faccio, ma Cristo, è tutto vero. In questo posto, che è infanzia, crudeltà, disoccupazione e guerra, la sicurezza è pagare la protezione da tutta questa merda. La sicurezza è entrare in un negozio, comprare quello che ti pare solo perché ne hai voglia. L'economia dice che rubare fa bene alla comunità perché i soldi girano più veloci. Stordito dall'idea di benessere, questo paese ha le vertigini e chi non gli sta dietro cade. Intanto Manuela sogna il posto fisso, un ragazzo che le voglia davvero bene, le scarpe firmate, la discoteca, i viaggi e la sensazione di sentirsi come con $1 milione in tasca. In una notte di metà settimana, con quelli del mio turno a giocare a biliardo, ubriachi, in una terra che sembra straniera, lontani da tutto, ce lo mangeremmo, quel tappeto verde. Le biglie sul tavolo sono come il sistema solare, che ho visto al planetario alle medie. La bianca è il sole, poi via via Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove. Mauro, con un colpo secco della stecca, le fa muovere. Vorrei davvero che tutti i pianeti si scontrassero l'uno con l'altro stanotte. e che non rimanessero che parti così piccole da essere indistruttibili, a muoversi nel vuoto, a riunirsi in tutti i modi possibili e poi a distruggersi di nuovo. È come nascere, è come sparire un milione di volte. Io sono già morto, è per quello che sto bene. 24 marzo. Qui la primavera comincia quando c'è la Milano-Sanremo. Nonostante del ciclismo non me ne freghi niente, ogni anno vado a vedere il passaggio della corsa perché quella sinfonia di colori, che per pochi secondi si impadronisce della strada, stupidamente riesce a rapirmi e a farmi star bene. Ogni tanto, come questa volta, capita che per primo arrivi a Novi uno che si è distaccato dal gruppo. Quando succede, quelli che ne capiscono dicono che è andato in fuga troppo presto per essere destinato a durare. A me invece viene naturale tifare per questi che tentano un'impresa inutile, perché anch'io da tempo mi sfinisco, rincorrendo qualcosa che non so più nemmeno cos'è. Oggi, visto che tutta la polizia era impegnata a controllare il traffico, tra il pubblico venuto a vedere la corsa ho dato appuntamento a uno per consegnargli una piccola parte della mia dose e prendendo in mano i buoni pasti che scadono a dicembre, con cui mi sono fatto pagare, allontanandomi, ho ringraziato l'eroina perché mi toglie il tempo di chiedermi quanto sia giusto vivere così. 30 marzo. Non puoi spiegare una sconfitta a chi è cresciuto tra gli sconfitti. È per questo che per molti rubare o farsi è un modo per vivere ciò che non si possono permettere. Qui chi comanda non ha interesse a parlare davvero con la gente, altrimenti saprebbe che c'è chi non ha né speranza né energie per salvarsi dal futuro. Puntare dove non tocchi non ti insegna a nuotare, perché anche se sei capace di far tremare il culo a tutti, non puoi uccidere il vuoto, il nulla, il dolore. Le ombre negli sguardi, i cumuli di rifiuti, gli amici che se ne sono andati sono la misura della sconfitta. E per queste strade dove la guerra è madre di ogni cosa, con le nocche rovinate, cercando invano uno scampo, vorrei toccare l'anima segreta della vita, arrendendo il mio cuore a quella sensazione. 28 settembre. Solo grazie alla forza che mi dà il pensarti, sono sopravvissuto a ferite che avrebbero ucciso chiunque. 11 novembre. Nella morte che ci vive addosso, chiedendoci di morire, sul corpo tracciato nella carne dal più lucido dolore, vorrei avere il coraggio di ammettere che sopra ogni cosa, come tutti, ho soltanto bisogno di amore. Ed ora, prima di chiudere il nostro appuntamento con la tela sonora Cuore di Poesia qui su Radio Alma, ci ascoltiamo i due inediti che ci ha regalato Enrico Marià, che non sono nel libro Precipita con me, che abbiamo preso in esame quest'oggi, ma che sono sempre quella forma di diario poetica con il quale Enrico Marià appunto si esprime. Questi sono i due inediti che ci ha regalato e poi chiuderemo questa nostra puntata della tela sonora. Quando ero ubriaco, gli agenti della Polser ammanettavano mio padre ad un termosifone. Poi, quando gli era scesa, ci chiamavano per andarla a prendere. Facevano così perché pieno d'alcol diventava violento. L'inverno che mia madre ha trovato la forza per sbatterlo fuori, lo abbiamo passato senza elettricità, scaldandoci con una cera carbonella. In casa non esisteva più nessun'altra forma di calore. Per la stanchezza e la povertà eravamo diventati estranei. Tutti i pozzi in cui non ti senti voluto sono uguali. Ognuno di noi da bambino aveva un eroe. Il mio era mio padre. Guardando le sue braccia di vene, nervi e muscoli, pensavo che se non fossi diventato forte non mi avrebbe voluto bene. Ed è per questo che accettavo le botte. Di quell'affetto non è rimasto niente. Ma in tutti questi anni non ho mai voluto essere nessun altro tranne lui. Ci sono vuoti impossibili da riempire e solitudini che non puoi dividere con qualcuno. La cosa più importante sono le persone. Io però, da quelle fredde notti del 1992, non riesco a fidarmi degli altri. L'amore non si impara. Questa partita non può durare ancora a lungo. E accendendomi le sigarette direttamente dal mozzicone, ora non so più dove cercare la volontà e la voglia per andare avanti e vivere. È un supermercato chiuso da più di 2 anni. Per entrare c'è bastato infrangere una delle vetrate. Non c'erano allarmi. Gli scaffali erano ancora pieni di cibo non scaduto e di bottiglie di alcolici. Con Stefano abbiamo mangiato senza parlare, con gli occhi abbassati, ingozzandoci, ficcando le dita dentro le scatolette. Spesso ci fermiamo qui anche a dormire, stando attenti a non fare casino, perché nessuno chiami i carabinieri. Intorno ci sono un locale ben frequentato e tante villette. La patina di decoro che avvolge quel mondo borghese nasconde solo un mucchio di merda. Il destino è più forte di ogni fuga, e tutte le strade portano dritto al capolinea. La nostra unica ambizione è quella di farci, ma nonostante la disperazione e le tasche vuote, non cercheremo chi vende la droga a credito, chiedendoti poi di essere pagato rubando la tua famiglia. Io e Stefano abbiamo fatto un patto: proteggeremo i nostri cari, perché l'unico giudizio che conta davvero è quello di chi ti ha voluto bene, e questa briciola di umanità è l'ultima cosa che ci tiene in vita, rendendoci per qualche istante ancora invisibili alla morte. Questi erano i due inediti che ha letto per noi Enrico Marià, il poeta protagonista di questa puntata della tela sonora Cuore di Poesia. Ora vi leggo l'ultima poesia che fa parte appunto del suo libro Precipita con me e che chiude questo viaggio che parte il 7 di gennaio, di un anno della vita del suo protagonista e che si chiude appunto il 29 dicembre. Precipita con me, guardandomi con occhi che sorridono. Insegnami a morire vivendo e stringimi sino allo schianto che gridando il mio nome dirà che anch'io esisto. Questo era Enrico Marià con il suo libro Precipita con me. Abbiamo ascoltato i tratti attraverso la voce stessa di Enrico che è stato ospite con noi in questa puntata qui su Radio Alma della Tela Sonora Cuore di Poesia. Da parte di Massimo De Martino è davvero tutto, vi ringrazio per essere stati insieme con noi anche in questa avventura, in questa puntata della Tela Sonora e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!